Ok. Siamo lodati Gesù e Maria. Allora. Ecco, questa sera, se Dio ci aiuta, vedremo insieme il Cantico dei Cantici, in pieno clima con l'ottava di Pasqua. Cantico dei Cantici, il cui sottotitolo può essere, come vedete dalla slides, le nozze dell'anima con Dio. Significativamente, guardate che bella questa slide, c'è una fede sopra la Bibbia in ebraico, vedete c'è scritto O Alcala Ayasa Kaahim Had Am Haruham, eccetera. Comunque va bene, con sotto l'ombra della fede descrive un cuore. Ecco, quindi è veramente molto espressivo di ciò che questo libro indica. Il Cantico dei Cantici è proprio il libro, vi ricorderete le volte scorse, il terzo livello. Auguro a qualcuno di voi di arrivarci, però è molto difficile arrivare al terzo livello, quindi all'unione con Dio già su questa terra. Ecco, chiaramente adesso vediamo subito qualcosa sul Cantico dei Cantici, una breve presentazione. Il Cantico dei Cantici può essere, diciamo, definito come il più grande poema d'amore mai scritto, che narra in forma dialogica, questa diciamo è la veste esterna, l'amore tra un re, il re Salomone, come sempre, e una donna, ecco, misteriosamente chiamata la Sulammita. Diciamo, questa è la veste esterna, e quindi è un continuo, diciamo, alternarsi di reciproche dichiarazioni di amore, apprezzamenti e fusioni di desiderio che in alcune circostanze, insomma, rasentano lo sfondo, diciamo, ai limiti di quello che è, come dire, ortodosso e lecito. Vi leggerò alcune espressioni, vi facciamo attappare le orecchie alle bambine, tant'è vero che nei primi secoli qualche padre santo, diciamo così, però chiaramente è stato un libro un pochino problematico per certi aspetti, no? Perché dice, ma questa è parola di Dio, ma ci sono delle espressioni un po' forti. Dice, ma quelle cose non so peccato. Dice, sì, ormai che stanno scritte nella Bibbia. Quindi c'è in qualche caso c'è stato qualche piccolo imbarazzo, perplessità, non avendo, diciamo, compreso alcune dimensioni, insomma, che adesso poi insieme vedremo. In ogni caso sono 8 capitoli, numero probabilmente non casuale, perché 8 sapete che è uno dei numeri santi, 8 è il numero della risurrezione, perché Gesù è risorto l'ottavo giorno, quindi è il numero, il 7 è il numero della perfezione, ma l'8 è il numero, ecco, innanzitutto perché l'8 comunque lo vedete rappresenta Dio, perché l'8 non è altro, voi sapete che il simbolo dell'infinito è un 8 messo in orizzontale, ma un 8 sono anche due cerchi messi insieme uno a fianco all'altro, cioè due simboli dell'infinito. Poi Gesù è risorto il primo giorno dopo il sabato, tant'è vero che nel calendario cristiano si celebrano le ottave. Le ottave vuol dire 7 giorni più 1, perché Dio aveva creato il mondo in 7 giorni, aveva cominciato il primo e aveva finito il sabato. Gesù è risorto il primo giorno dopo il sabato, quindi, che sarebbe stato il primo della creazione, ma essendo il giorno nuovo, quindi il giorno fatto dal Signore, dice la Scrittura, è, come dire, per antonomasia il giorno dei giorni, quindi è l'ottavo giorno, quindi non il giorno della creazione ma il giorno della nuova creazione. Probabilmente il numero di capitoli del Cantico dei Cantici non è casuale, nel senso che Dio, quando fa le cose, Lui mi perdonerà, per certi aspetti è più terribile delle donne, perché voi sapete che le donne stanno attenti ai minimi particolari, tutte le cose, ma Dio non lascia proprio nulla al caso, quindi sta attento anche ai minimi dettagli, alle minime sfumature, e lascia tante tracce anche nei minimi particolari affinché noi possiamo riconoscere le sue orme dovunque si trovino. Allora, questi 8 capitoli sono suddivisi in un prologo, brevissimo, lo leggeremo, ma stupendo, 5 poemi. Li trovate, insomma, le sezioni che le identificano. C'è questa classificazione oggi abbastanza accettata. E 2 appendici al termine, di cui noi leggeremo, mi sembra, la prima, che è molto bella. L'autore è chiaramente Salomone, come vedremo subito. Anche qui nel primo versetto Salomone si firma. Inutile dirvi che gli esegeti contemporanei non attribuiscono neanche questo libro a Salomone, ma al IV e V secolo, eccetera. Se vi piacciono queste cose, andatevele a studiare. Io me ne sono già studiate abbastanza per forza, quindi mi affretto a porle nel dimenticatoio delle cose inutili, ecco, e delle disquisizioni assolutamente. Ecco. Ora, chiaramente questo testo c'ha un significato allegorico, che si situa anzitutto su un primo grande filone. Il Cantico dei Cantici è un'allegoria, espressa in forme umane, quindi attraverso il linguaggio dell'amore empiricamente conosciuto, dell'amore intenso, diciamo così, passionale, che è quello tra un uomo e una donna. Quindi tutte quelle espressioni, anche forti, che si trovano, devono essere sempre intese in forma allegorica. Quindi è un'allegoria dell'unione mistica tra l'uomo e Dio. No, mi devo esprimere un pochino in codice, qui stanno un pochino di creature innocenti. Diciamo che Sant'Agostino, che non era certo, era sempre stato Agostino, ma Sanna ci è diventato dopo una certa età. A un certo punto lui scrive proprio testualmente che Sant'Agostino deve essere stata un'anima mistica, perché a parte che si capisce da alcune cose, ma come tutti i grandi santi dei primi secoli e come anche tutti quanti i grandi pastori, cosa quanto mai salutare, lui prima di essere stato prete e vescovo è stato monaco, quindi per diversi anni ha curato esclusivamente la vita di unione con Dio. Cosa molto importante, perché quando c'erano ancora i seminari cattolici, che adesso i seminari cattolici insomma non è che siano tanto, e il fatto che uno prendeva un ragazzotto e lo portava via dal mondo per un certo periodo di tempo ricalcava questo schema che hanno seguito tutti quanti i padri. Cioè, tu non puoi andare a portare Dio agli uomini se Dio non l'hai incontrato tu, e per incontrarlo devi chiudere i ponti e devi cominciare a avere una vita, come dice San Paolo, nascosta con Cristo in Dio, dove non c'hai altra occupazione che quella di occuparti di Lui e delle cose che riguardano Lui. Tra le tante stupidaggini che è stato fatto oggi nei seminari, stava cancellata anche questa dimensione. Io, a me me l'hanno raccontato i preti anziani entravano nel seminario, non mi ricordo, non lo so, 1° settembre, e tornavano per le vacanze estive, credo il 31 luglio, con la festa di Sant'Ignazio. Dopodiché facevano una rapida comparsa a casa, qualche giorno a Natale e qualche giorno a Pasqua, e basta. Dopodiché stavano lì. E per anni, quando poi facevo pure il seminario minore, cominciava a 10-11 anni e uscì a 24, insomma. Quindi ora che questa cosa non c'è più, è un grandissimo danno, ecco, perché guardate che uomo di Dio ci si diventa soltanto attraverso l'orazione. E quando uno sta fuori certi ambienti, lo so pure io, insomma, per esperienza, diventa, no, difficile, enormemente difficile, perché per quanto uno combatta e faccia il possibile, non ci sono proprio le condizioni, ecco, per cui ti sei riempito bene prima e cerchi poi chiaramente di mantenere, anche di crescere un po', oppure quello che non ci hai avuto non ci lavorerai mai più. Comunque, questo per dirvi che Sant'Agostino, probabilmente nella sua piccola primitiva esperienza di forte unione con Dio, deve aver conosciuto i vari gradi della vita mistica, perché scrive che un secondo di vita di unione con Dio non vale, questo non dovrebbero capire, tutti gli amplessi in senso basso che una persona possa vivere nella vita terrena, e lui queste cose le conosceva abbastanza bene, ecco. E è perché questa settimana di Pasqua noi dobbiamo pensare che il fine della vita terrena e il fine della redenzione, anche tutte le sofferenze che ha sopportato Gesù Cristo, è la visione beatifica, la visione beatifica rappresenta il sommo godimento possibile, il sommo bene per l'uomo. Quando una persona vive un'unione mistica con Dio, come scrive Santa Teresa, questo godimento è in qualche modo anticipato sulla terra, solo che sulla terra è anticipato, ma quando uno ha queste cose aumentano le croci, perché se vuoi molto godere qui devi molto soffrire. Per questo che San Giovanni della Croce dice, questo ricordatelo bene, che non bisogna mai desiderare le grazie straordinarie dell'unione con Dio, perché desiderarle, oltre che essere espressione di superbia, perché Dio da quelle cose soltanto anime molto, molto purificate, è anche espressione di estrema imprudenza, perché Dio concede quelle grazie soltanto ad anime molto provate, e che ti arriva qualche cosa, qualche croce grossa che non ce la fai a sopportare, può darsi anche che anziché abbracciare, raggiungere l'unione con Dio, prendi, butti tutto per aria e ti danni. Per questo che non bisogna desiderare queste cose, non bisogna desiderarle, ma tuttavia dicono gli autori spirituali accreditati, tra cui Royo Marin, Giuseppe Shrivers, eccetera, che la vita mistica rappresenta una dimensione ordinaria della vita cristiana, quindi non è una cosa, cioè rappresenta lo sbocco naturale a cui tutti dovrebbero arrivare, e se non ci arriviamo probabilmente in molte cose c'è colpa nostra, non colpa certamente di Dio. Santa Teresa d'Avila, se leggete il Castello Interiore, scrive che la stragrande maggioranza delle anime restano all'esterno del castello, che sarebbe la propria anima, nessuno ci entra dentro neanche a vedere l'anticamera e le parti diciamo più esterne, e questo con grave colpa, anche perché pochissimi cristiani cominciano a fare un pochino di meditazione, fatto un po' di meditazione lì si fermano perché gli sembra il massimo, ma questo non è altro che l'anticamera della vita interiore, purtroppo. Comunque, adesso va bene, però a prescindere da queste considerazioni, quindi questo è diciamo il contesto in cui comprenderlo. Ora, ci sono dei livelli del cantico, d'accordo? Quindi man mano che si leggono bisogna sempre vedere tutti questi livelli compresenti. La prima cosa è l'unione tra Gesù e la Madonna. Gli autori più illuminati hanno detto questo poema è stato scritto chiaramente in maniera mistica, senza che l'autore si rendesse conto, perché è l'espressione, come dire, reale dell'amore che Gesù ha avuto per sua madre e viceversa, o anche dell'amore che Dio ha avuto per il suo capolavoro che è la Madonna e viceversa. Ci sono delle espressioni sparse qua e là, una forse non leggeremo, per esempio la donna cingerà l'uomo a un certo punto, che fanno chiaramente, proprio chiarissimamente pensare, ecco. E qualche autore illuminato già dai tempi antichi disse che Salomone, quando scriveva queste cose, non poteva non pensare a questa misteriosa, ecco, unione. Seconda cosa, secondo livello, è l'unione tra Gesù e la Chiesa, la Chiesa intesa come sua sposa. Cioè, tra la Chiesa Santa, la Chiesa Corpo di Cristo e Gesù c'è un rapporto sponsale, reciproco. Quindi questa dimensione, diciamo così, un po' collettiva, è però poi vissuta a livello personale. Quindi è un'allegoria dell'unione tra Gesù e la singola anima che, rispondendo agli inviti della Divina Grazia, percorre il santo viaggio e giunge fino alle vette della vita interiore, raggiungendo fin da questa terra l'unione con Dio. Infine c'è anche questo livello, che oggi praticamente è l'unico messo in risalto dagli esegeti modernisti e razionalisti, che è un'allegoria dell'amore umano santamente vissuto. Cioè, in queste espressioni, di fatto, la forma letteraria di questo testo è quella appunto dell'amore sponsale vissuto e manifestato ad invicem tra lo sposo e la sposa. Certamente quindi questo elemento c'è, ma non è certamente né il prioritario né, come qualcuno afferma oggi, addirittura esclusivo, insomma. Quindi non è stato scritto per questo il Cantico dei Cantici. Come vi accennavo, il linguaggio è molto forte ed è a tratti erotico. Qualche piccolo accenno, insomma, lo leggeremo. Però questo linguaggio amoroso, anche un pochino forte, un pochino per certi aspetti un po' spinto, rappresenta un pallido riflesso, ecco, degli amplessi estatici dell'unione con Dio. Nessuno dei mistici, usano sempre linguaggi verborici, dicono che grandissimo contento, che grandissima gioia, non si può esprimere, non si può dire a parole. Se uno legge, dicono sempre così, ecco. Perché non c'è modo, insomma, cioè, ci sono alcune esperienze spirituali, anche a livelli bassi, quindi anche ai primi livelli della vita interiore, che non si possono ben esprimere a parole. Chi di voi ha vissuto qualcosa, non lo so, non è che vi conosco tutti quanti da tanto bene, quindi anche alle prime forme di consolazione sensibile, insomma, o di orazione di raccoglimento, sa che ci sono alcune esperienze intime che non si possono descrivere, si possono soltanto vivere. Quindi a questo punto passiamo alla lettura di alcuni brani scelti, ci fanno un pochino entrare nel clima e rendere conto della bellezza del Cantico, che è un testo difficilissimo. Quando uno studia l'ebraico non può assolutamente mettere mano al Cantico dei Cantici, perché essendo scritto in poesia è difficilissimo da tradurre. Noi però, grazie a Dio, ce l'abbiamo già tradotto e quindi possiamo leggere alcuni passaggi. Cantico dei Cantici di Salomone, questo è il versetto 1, quindi è abbastanza, come sempre, emblematico. Guardate che esordio, secco: mi baci con i baci della sua bocca, sì, migliore del vino del tuo amore, inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande il tuo nome, per questo le ragazze di te si innamorano. Qui chiaramente parla la sposa. Trascinami con te, corriamo, mi introduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo di te, ricorderemo il tuo amore più del vino, a ragione di te ci si innamora. Quindi vedete che overture. Questo è il prologo. Tenete presente che, tanto per fare anche un po' di, diciamo che nella spiritualità cristiana ci sono due, come dire, grandi correnti di spiritualità e di pensiero, che sono poi anche le due grandi correnti filosofiche che si sono succedute nel corso della storia, la linea aristotelica e la linea platonica, ecco. Ovvero San Tommaso d'Aquino e Dun Scoto, i Domenicani e i Francescani. Allora, la prima linea dice che l'unione con Dio segue alla conoscenza del vero. Quanto più tu ti accosti alla verità, quindi tanto più conosci Dio, tanto più lo ami. Poi c'è la linea platonica. Dice no, dice: per quanto riguarda Dio, la conoscenza viene dopo, la molla e la fonte dell'unione con Lui è l'amore, che ha il suo alimento nel desiderio. Quindi, quanto più ti unisci con Dio per l'amore, tanto più lo conosci, perché l'amore stesso è una fonte di conoscenza. Questa è la linea di Platone, è la linea della scuola francescana e la linea di Duns Scoto. Quale delle due sarà vera? Quale delle due prediligete? Ecco. Ecco. Di fatto i mistici hanno percorso questa via. I mistici sono innamorati folli. Attenzione che la via dell'amore è la via anche della follia, perché tutti quanti gli innamorati. Gli innamorati fanno le follie. Io l'ho fatte le follie per le mie innamorate, fatte manco poche. Ecco. E ogni tanto il nostro Signore mi ha fatto fare qualche follia proprio con questa cosa qua, perché mi ha messo in faccia e dice: ma come, per una creatura hai fatto sta cosa da matto che chiaramente non vi dico, e per me non faresti quest'altra cosa? Allora devi dire: ma che devo fare, se la metti così non c'è chance, non c'è via d'uscita. Quindi ecco, però questa è una cosa fondamentale, però il discorso è questo. Io personalmente penso, però questo dipende da come sono fatto io, cioè che come dicevano anche i filosofi pagani tipo Marco Aurelio, è verissimo che la fonte più grande, cioè ciò che muove l'uomo, sono i desideri, questo è indubbio. Però l'uomo desidera ciò che conosce, l'uomo non può desiderare ciò che non conosce, questo è così importante conoscere. Quindi io ritengo che queste, come in tutte le cose, tenete sempre presente che tra le tante stupidaggini che ha detto Giorgio Guglielmo Federico Hegel, che ne ha dette tante, è stata la causa della rovina dell'Occidente, questo grandissimo filosofo, tra le cose vere che ha detto, anche se deve essere rettamente interpretata, è che il vero è l'intero, cioè la parte è sempre parziale. Quindi è sempre bene tenere presente una visione in insieme delle cose, perché in ogni posizione c'è qualcosa di vero. Non la si può assolutizzare, perché assolutizzandola inevitabilmente si diventa di parte, quindi faziosi. Quindi si opta per un'opzione, però ci si perde quell'altra. Quindi, a mio parere, cioè questo parere mio personale, che potete fare l'uso che volete, cioè, la conoscenza è importante come punto d'inizio, però ciò che è più importante come proseguimento del cammino è il desiderio e l'amore. Però il desiderio e l'amore non vengono se non c'è la conoscenza. Da questo punto di vista, secondo me, aveva visto bene San Tommaso. Però è anche vero che poi a sua volta l'amore diventa una fonte di ulteriore conoscenza, perché tu tanto più conosci Dio quanto più lo ami. Quindi capite che non c'è una, a mio parere, una contraddizione. Bene, andiamo avanti. Questo era il prologo. Subito dopo il prologo leggiamo uno stralcio del secondo poema. C'è qualche brano scelto. Il cantico è bello, ci sono dei passi molto misteriosi. Guardate che questo è stato commentato quasi esclusivamente dai mistici. San Giovanni della Croce ha scritto delle opere intere dedicate al commento di pochissimi versetti del Cantico dei Cantici. Quindi questo è un libro che ha una veste esterna abbastanza flessibile, abbastanza comprensibile, però racchiude una montagna di misteri, d'accordo? Comunque adesso non leggeremo qualcosa. Quindi 2, 8, 17. Andiamo a vedere insieme. No, sbagliato. Allora, una voce, l'amato mio. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Già su questo versetto potremmo parlarci un quarto d'ora. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia. stesso verbo della resurrezione, cumi, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Ecco la Madonna qui, è un mia colomba che sta nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Ecco le volpi, i padri della chiesa quanto hanno scritto sui volpi e sulla volpe Erode. Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne. Le nostre vigne sono in fiori. Il mio amato è mio, io sono sua, egli pascola fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto sopra i monti degli aromi. Se avete tempo fino a domani mattina alle 6, ecco, lo commentiamo nel dettaglio. Notiamo chiaramente, attenzione, cioè, le cose che vi dico non sono ovviamente cose di Don Leonardo, ma come sempre il pappagallo che ripete le cose che hanno detto autori ben probati, no? L'amato mio viene saltando per i monti, balzando per le colline. Cosa sono i monti e cosa sono le colline? Balza per i monti, salta per i monti e balza per le colline. I monti, sapete, sono vette abbastanza elevate sulla terra, le colline elevate ma un po' meno. Allora, ci sono due forme con cui l'uomo si eleva dalla terra e vola verso Dio. Una impegnativa ma non troppo, una impegnativa abbastanza, che sono le immagini allegoriche della collina e della montagna. La preghiera è la collina, il sacrificio è la montagna. Quindi quanto più una persona prega e quanto più una persona si sacrifica, si distacca dal mondo, tanto più si avvicina all'amato, perché l'amato viene ma balza sulle colline e salta sui monti. Quindi se non si prega, non si fanno sacrifici, l'unione con Dio ce la scordiamo. Proprio sicuro, 100% matematico, senza alcun tipo di possibilità diversa. Attenzione, l'unione con Dio non è che dice che uno va all'inferno se non fa queste cose. Se per non andare all'inferno basta osservare i 10 comandamenti, ma se vuoi l'unione con Dio queste cose te le scordi, cioè se non ci sono queste cose te le scordi proprio. Somiglia ad una gazzella o un cerbiatto. Attenzione, ecco, gli sta dietro il nostro muro. Noi abbiamo un muro, guarda dalla finestra e spia dalle inferiate. Il muro è la nostra volontà, contro cui nostro Signore non può fare nulla se non gli si apre. Potrebbe sfondare le porte, potrebbe sprangare i muri, ma non lo fa, non lo ha mai fatto e non lo farà mai. E vedete, il modo che il Signore usa con tutte le anime è quello dell'invito. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Quel verbo alzati in ebraico è lo stesso verbo della risurrezione. Cioè abbiamo tantissimi racconti anche nei Vangeli, se vi ricordate gli anni scorsi. Il cieco guarito cosa fa? Si alzò, butta il mantello e cominciò a seguirlo. Quindi alzarsi vuol dire lasciarsi alle spalle qualcosa e intraprendere qualcos'altro. Santa Teresa dice che per intraprendere il cammino che porta l'unione con Dio ci vuole coraggio, perché bisogna lasciarsi dietro alcune cose che non si riprendono e bisogna armarsi di tanto coraggio per affrontare tante difficoltà. L'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andato. Voi sapete che nella Sacra Scrittura questa roba qui, l'inverno, quindi il freddo e tutto ciò che significa, simboleggia la vita, come dire, la vita imperfetta, la vita mondana, la vita peccatrice, sta alle spalle. Diciamo che la vita che introduce nell'unione con Dio è descritta allegoricamente con l'immagine della primavera e con tutte quante queste Immagini che non vi sto a commentare una per una i fiori, le tortole, se no veramente facciamo le 6 fino a domani mattina. Però, mia colomba che sta nelle fenditure della roccia, questa è una viva immagine della Madonna, le fenditure della roccia. Ecco. La capacità della Madonna di restare sempre nascosta e unita con il Signore. Sapete che la roccia, dice San Paolo, era Cristo, quindi le fenditure della roccia, ci sono dei commenti. Quali sono le fenditure della roccia? Le piaghe di Cristo, la Madonna che è sempre nascosta lì. E il Signore che la chiama, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Dio che si compiace nella bellezza della sua creatura. Ecco, le volpi piccoline che devastano le vigne. Sapete che la vigna, vi ricordate anche i Vangeli? Vedremo anche l'immagine del profeta Isaia. La vigna è un'immagine per designare l'anima fedele, perché la vigna produce il vino, che è l'immagine della letizia, della felicità e dell'amore. Quindi le volpi piccoline che devastano le vigne, nella letteratura interiore, sono tutte quante le nostre male passioni, passioncelle. Che devastano le vigne, nel senso che ci rendono particolarmente invisi al Signore e incapaci, ecco, di produrre buoni frutti per il Signore. E poi l'amato pascola fra i gigli, cioè non c'è nessuna virtù che ama di più nostro Signore che la purezza, e non c'è maggiore ostacolo all'unione con Dio che l'impurità. Quanto più una persona è vicina al mondo dell'impurità, tanto più è lontana dall'unione con Dio. Questo c'è una corrispondenza biunivoca, scrivendola in termini matematici, nel senso di inversione proporzionale. Cioè l'unione con Dio è inversamente proporzionale al grado di impurità. Quanto più una persona è impura, tanto più lontana si trova dall'unione con Dio. E quanto più una persona si allontana dalle cose, come dire, più prettamente carnali, e tanto più ordinariamente si avvicina all'unione con Dio. Questo è un primo saggio. Poi, qualche passaggio dal terzo poema. 4.1.15. Qui c'è qualche espressione un po' al limite. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo. Dietro il tuo velo, quindi, chi ha orecchi per intendere, intenda. Le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dal monte Galaad. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli. Come nastro di porpora le tue labbra, la tua bocca è piena di fascino, come spicchio di melagrana la tua tempia dietro il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide. Voi lo dite il rosario, no? Turris Davidica, torre di Davide. Vedete, è presa da qui questa espressione. Costruita a strati, 1.000 scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi. Vedete, i tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella che pascolano tra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò sul monte della mirra e sul colle dell'incenso. Vedete? Il monte, la mirra, il sacrificio, e il colle, l'incenso, la preghiera, quello che ho detto prima. Ci stanno gli indizi nella Sacra Scrittura per decodificare queste cose. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto. Tota pulcra es et macula non est in te. Proprio è il latino testuale. Tota pulcra è preso testualmente da questo versetto. Vieni dal Libano, o sposa, vieni dal Libano, vieni, scendi dalla vetta dell'Amana, dalla cima del Senire e dell'Ermon, dalle spelonche dei leoni, dai monti dei leopardi. Dietro questa espressione c'è racchiuso il leone e il leopardo, animali da me molto amati, sono il simbolo del coraggio, della fortezza. Tu mi hai rapito il cuore, questo, attenzione allo sposo che parla alla sposa, sorella mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quando gli autori spirituali dicono una virtù solo della Madonna ha rapito il cuore di Dio, non ce ne aveva a iosa, ce ne aveva incalcolabili. Si può prima contare i granelli della terra, della sabbia, del mare, che contare le virtù di Maria, ma una sola basta per rapire il cuore dell'Altissimo. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia sposa, quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa, la dolcezza, c'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Ecco, hortus conclusus, giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. Altro versetto che tutta la letteratura mariana, specialmente San Luigi Maria Monforte, ma non solo, ha applicato alla Madonna. La Madonna è un giardino chiuso, nel senso che è fontana sigillata, sorgente chiusa, cioè lì non c'entra nessuno. Cioè, in base a questo versetto i commentatori dicono Dio, guardate che cioè, si è creato la Madonna per sé, è il luogo della sua compiacenza, lì dentro non c'entra nessuno. Per questo che la Madonna, non so se a voi succede, a me succede tante volte, si ha l'impressione che la Madonna uno più la conosce e meno la conosce, cioè ci si avvicina un pochino e poi sembra come se venga gettato lontano, perché non si passa là, perché Dio è geloso, non, dice San Luigi Conforto, c'era una grazia straordinaria per meritare di poter entrare dentro quel giardino, e per meritarsela ci vogliono molte fatiche, molti travagli, molte tribolazioni e molte virtù, se no lì dentro non si entra. Qualcuno dice che Dio non ha sterminato il genere umano dopo il peccato originale semplicemente perché voleva vedere la Madonna viva, cioè non gli bastava di vederla, di vagheggiarla nella sua mente, ma voleva che fosse uscita e che quindi diventasse creatura vera e reale per poter vivere queste cose che stanno scritte dentro il Cantico dei Cantici. Noi non ci rendiamo, purtroppo, in questa terra non ci possiamo rendere conto di queste cose, no? Pensare a tutte quante le varie forme, anche oggi, fatte anche in buona fede da parte di qualcuno, di minimizzazione mariana. Dice, ma non dobbiamo parlare troppo della Madonna, che dobbiamo parlare di Gesù Cristo che è il Salvatore. Ecco. Vi ripeto, magari fatte anche da qualcuno con una buona intenzione, anche se aizzata da qualcuno di dare il primato a Cristo, ma... Quindi i tuoi germogli sono un paradiso di melegrane con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo. Per esempio il nardo nella Sacra Scrittura, secondo gli autori, i padri, rappresenta l'umiltà. Tutte quante queste piante adesso, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi d'incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori, sono tutte figure allegoriche che descrivono alcune virtù. I padri erano grandissimi nel fare la meditazione e la contemplazione, nel senso che capivano i significati di alcune di queste immagini meditandoci sopra. Per esempio, lo faccio per dire esempio, il cipresso, lo parlavo scritto anche, che cosa simboleggia il cipresso? Il cipresso è un albero sempre verde, quindi, un albero sempre verde, non si invecchia, sta dritto, quindi che cosa rappresenta? Cioè, per capire un simbolo bisogna cercare di capire ciò che quella cosa fa e poi fare la trasposizione in campo spirituale. Una cosa sempre verde, che non smaltisce mai, e che sta sempre erto e alto, e la virtù per esempio c'è la fortezza, che ognuno deve conoscere bene, tante piccole cose. La mirra, perché la mirra rappresenta la sofferenza, il sacrificio? Perché la mirra è un'essenza aromatica, dal sapore amarissimo. Quindi, d'accordo. L'incenso perché rappresenta la preghiera? Perché l'incenso è fumo che parte da basso e sale verso l'alto, quindi, come dire, esprime in forma visibile il movimento della preghiera, che parte dal cuore nostro e sale fino a Dio. Noi abbiamo perso tutte queste cose perché stiamo in tutt'altre faccende affaccendate. Ecco, questo è un altro, diciamo, ritratto, diciamo, quasi al naturale della grandezza della Madonna. Vediamo un'altra piccola sezioncina, poi concludiamo, perché qui, vi ripeto, ci sarebbero moltissime cose da approfondire, però diventerebbe un po' troppo. 5, 10, 16, quarto poema. Stavolta è la sposa che parla dello sposo. L'amato mio è bianco e vermiglio, vedete? Vermiglio, sapete, vuol dire rosso. Quindi è bianco perché è puro, è rosso perché ha sofferto. Riconoscibile fra una miriade, il suo capo è oro, oro puro. E qui ancora, i suoi riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi sono come colombe, su ruscelli d'acqua. I suoi denti si bagnano nel latte e si posano sui bordi. Le sue guance sono come aiuole di balsamo, dove crescono piante aromatiche. Le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra. Vedete? Gigli che stillano fluida mirra. Quindi la purezza e la dolcezza, che cosa dice Gesù? Gesù quando parla stilla fluida mirra, un po' perché ti invita alla sofferenza della croce, un po' perché ti dice la verità e quindi ti fa male. Ecco. Le sue mani sono anelli d'oro, incastonate di gemme di tarsis, il suo ventre è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri, le sue gambe corone di alabastro posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come cedri. Dolcezza del suo palato, egli è tutto delizie. Questo è l'amato mio, questo è l'amico mio, o figlie di Gerusalemme. Ecco, tenete presente che dietro ognuna di queste immagini, quasi tutti i padri della Chiesa, a differenza di oggi, che non commenta più nessuno, hanno scritto i commenti al Cantico dei Cantici. Questo è un altro segno dei tempi. Loro erano molto, molto bravi a scrivere il commento al Cantico dei Cantici perché erano molto capaci di penetrare il senso e le verità, diciamo, nascoste dietro queste immagini. Oggi è difficile trovare persone che sono capaci di fare questo, perché è difficile trovare persone di orazione. Ecco, perché soltanto l'esperienza, diciamo così, che dà le chiavi di accesso a queste immagini. Infine diamo un'occhiata rapida all'epilogo, anche questo molto bello. Chi sta salendo dal deserto appoggiata al suo amato? Sotto il melo ti ho svegliato laddove ti concepì tua madre, laddove ti concepì colei che ti ha partorito. Ecco, adesso queste parole speriamo che ci restino nel cuore. Mettimi come sigillo sul tuo cuore e come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Quindi è lo sposo che parla alla sposa e la invita a mettere come sigillo. Sapete che i sigilli vengono impressi, mica vengono impressi il marchio. Quindi Dio vuole essere anzitutto amato, ma amato, amato, amato, e poi vuole essere servito. Quindi sigillo sul cuore e sigillo sul braccio, perché col cuore si ama e col braccio si opera. Quindi sono le due dimensioni fondamentali della nostra vita, cioè l'amore è l'anima della e sono anche le due forme fondamentali di vita, cioè nella Chiesa hanno due stati di vita fondamentalmente, la vita attiva e la vita contemplativa. La vita attiva sta un po' più dalla parte del braccio, la vita contemplativa sta un po' più dalla parte del cuore, però il cuore precede sempre il braccio, cioè il cuore è simbolo dell'amore, anche perché il cuore, voi sapete, che è l'organo vitale per antonomasia, perché il cuore è il centro di tutto, cioè se il cuore non battesse non potrebbe neanche pensare la mente, quindi e tutto dipende dall'attività del cuore. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, qualunque cosa noi facciamo, purtroppo, ecco, lasciamo il Cantico dei Cantici e le moltissime cose che non abbiamo detto, però teniamo qualche piccola cosa, cioè, anche se purtroppo noi non siamo monaci, quindi se la vita del mondo presenta enormi ostacoli a coltivare l'unione con Dio, dobbiamo però ricordare che la preghiera deve essere l'anima della nostra vita. Noi saremo sempre tentati, lo sono anch'io, ininterrottamente, tutti i benedetti giorni, di anteporre le cose da fare alla preghiera, sempre. Siamo sempre tentati di dire, ma ci stanno troppe cose da fare e non ci può stare, non si può stare a pregare. Questo non bisogna farlo mai. Non bisogna permettere, e saremo sempre, sempre, io oggi lo sono stato, domani lo risarò, eccetera, eccetera. Sempre tentati. E certamente, voi capite che non è possibile, ovviamente, non fare nulla perché si deve pregare. Questo sarebbe assurdo. Quindi tutti quanti noi abbiamo il Padre spirituale, ecco, con il quale concordiamo i momenti, le forme e i tempi della vita interiore, in maniera tale che siano di aiuto e non di ostacolo alla nostra missione, che siano proporzionati al nostro stato di vita, al nostro lavoro, al nostro grado di crescita, eccetera. Fatto quello, però, bisogna fare attenzione a non cedere terreno su questo campo. Perché l'attacco al cuore che ci viene fatto dai nostri nemici è questo. Se perdiamo questo, abbiamo perso tutto. Cioè, facciamo soltanto una montagna di azioni disordinate, che non servono quasi a niente, e che non giovano né alla gloria di Dio, né al bene degli altri, e neanche alla santificazione nostra e personale. Prima il sigillo sul cuore e poi il sigillo sul braccio, no? E Gesù nel Vangelo ci ha ricordato questa cosa nell'episodio famosissimo di Marta e Maria. Ecco. Dice, ma mia sorella non mi aiuta, dice. Tu ti preoccupi e ti agiti per tante cose, ma una sola è la cosa necessaria. Stanno attenti che Gesù stava parlando a una persona che l'aveva invitata a pranzo, quindi dice, ma che facciamo? Che te mangi l'aria? Quindi quando uno invita qualcuno a pranzo bisogna pure apparecchiare, che dobbiamo fare? Ecco, con calma, ecco, prima si sente la parola di Gesù e poi si apparecchia. Quindi bisogna fare attenzione, perché tutte queste cose compaiono in una cioè sempre attraverso cose plausibili, sempre attraverso tante. Allora, su questo bisogna fare sempre estrema attenzione. E nel caso di dubbi, io vi consiglio, lo faccio pure io così, uno chiede consiglio, in modo tale che non si sbagli. Perché su questo è veramente un guaio. Perché forte come la morte è l'amore, e tenace come il regno dei morti è la passione. Forte come la morte è l'amore. Quindi quando l'amore c'è, l'amore è forte, cioè l'amore è forte come la morte, significa che è invincibile. Se è amore. Dalla morte, diceva San Francesco, dalla quale nullo uomo può scampare. Scriveva nel Cantico dei Cantici. Quindi la morte l'ha vinta soltanto il nostro Signore Gesù Cristo, soltanto perché era il Figlio di Dio, altrimenti la morte non si vince. Quindi con la morte perdiamo tutti. Mi dire che l'amore è forte come la morte vuol dire che l'amore vero è invincibile, quindi non può crollare. Cosa significa questo qui? Noi staremo tranquilli mai, ma possiamo sperare che il nostro amore sia autentico e che non crolli, nella misura in cui lo alimentiamo mettendo Dio al primo posto nella vita interiore. Guardate che anche per le persone Leonardo a volte diventa monotono, di sempre le stesse cose, però purtroppo si tratta di sempre le stesse cose. Anche per le persone che non fanno una grandissima vita interiore, Nostro Signore e Santa Madre Chiesa hanno dato una piccolissima indicazione, che è normativa proprio per vivere in maniera chiaramente distante, però è proporzionata questa dimensione. Devi pregare tutti i giorni, la mattina e la sera. Ma la mattina non prego, prego a mezzogiorno. A me è uguale. Dico. Allora, è il significato simbolico dell'atto. Cioè che se tu la mattina ti alzi, la prima cosa che fai è preghi, vuol dire che tu stai mettendo Dio come sigillo sul tuo cuore. Cioè io non inizio la giornata, quindi non mi metto a operare se prima non ho pregato. Perché se non prego è inutile che opero. Tutto quello che faccio lo farò malamente e senza nessun profitto. E così non vado a dormire senza aver ringraziato Dio. C'è una preghiera che dice: perché ogni cosa, ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Quindi, anche se uno non ha una grandissima vita interiore, però comunque queste dimensioni in qualche modo lo deve vivere, almeno al minimo, e al minimo si vivono così. Così come il compito della messa domenicale, il compito della confessione a Pasqua, sono delle piccole cose che aiutano chi non ha tutto questo grandissimo fervore a, come dire, vivere, ripeto, in maniera proporzionata e adeguata questo, che è indispensabile, non si può non vivere, anche se a livelli bassi. E se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Quindi trovare, mantenere, conservare l'amore di Dio è la ricchezza delle ricchezze, è la cosa più importante, è il bene sommo, è qualcosa di inestimabile. E quindi, siccome non si ama se non ciò che si desidera, non si desidera se non ciò che si conosce, è fondamentale, ecco, nella nostra vita interiore, anche voi che state qui, che noi dedichiamo che cosa? Tempo ed energia a conoscere il nostro Signore, che è la cosa più importante che ci stia da fare in questa terra. Vediamo, non è che in nome di quello si può trascurare tutto quello che è la nostra esistenza, quelli che sono i nostri doveri, i nostri compiti, certamente no, ecco. Però da qui a niente, come purtroppo tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle vivono, ci passa qualche piccola differenza. Ecco, quindi augurando a tutti voi di giungere all'unione con Dio e al sonno mistico, non al sonno reale come questa fanciulla che sta al mio fianco. Il sonno mistico è l'ebbrezza dell'estasi che azzera le attività dei sensi e libra l'anima verso il Signore. Quindi, augurandovi questo in questa santa ottava di Pasqua, concludiamo questo nostro incontro biblico di oggi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.